seppur con sentor d'autunno, è una bellissima giornata, qualche scampolo, daici, qualche briciola, ci illudiamo d'estate che rimane. 27 settembre è il mercoledì, è l'ultimo mercoledì del mese di settembre. Abbiamo tardato un attimo per preparare una bellissima playlist, non solo letteraria, ma anche musicale, come ben sapete, curata da Silvia e Stefano. Intanto bentornata Silvia e buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi ci sentiamo un po' isolati, ma non dalle nostre ascoltatrici o dai nostri ascoltatori, perché con tutte queste isole, più che isolati, diciamo che vivremo in un arcipelago con la playlist che hai fatto, che penso sia attinente anche al lavoro che hai portato. Beh, il libro che porto oggi in effetti si intitola Un'isola. Punto. Punto. Ecco, chiaro. Quindi ecco perché siamo così isolati. Allora, è un libro di un'autrice sudafricana che si chiama Karen Jennings, edito da Fazzi, ed è una storia molto molto particolare. C'è praticamente, si svolge tutta appunto su un'isola che è abitata soltanto da un individuo, il guardiano del faro. Questo è un vecchio uomo di colore che nella sua vita ha avuto un sacco di traversie, ha passato anche 20 anni in prigione per motivi politici, e alla fine gli è stata assegnata, così quasi come una sinecura per impiegarlo in qualche modo, gli è stata assegnata questa piccola abitazione e vicino al faro, in quest'isola dove non c'è nessun altro e dove le provviste che gli consentono di sopravvivere arrivano una volta ogni 15 giorni. Oh, che invidia, guarda, è sempre stato uno dei lavori. Ma c'è un concorso come guardiano del faro? Beh, mi sarebbe piaciuto. Mi sono avvicinato alla solitudine molto come elettricista, che non è esattamente del faro, ma nei depositi della memoria, posti già di per sé illuminati, però essere tedoforo dei depositi della memoria. Wow. A proposito di memoria, depositi, eccetera, questo signore ogni tanto riceve, non posso dire riceve la visita, comunque approdano alla sua isola dei cadaveri, che sono i cadaveri purtroppo delle persone che hanno tentato la traversata e sono morte sul tragitto. Le porta al mare, le porta al mare, all'isola. Okay. All'inizio lui tutte le volte avvisava la capitaneria di porto che veniva a prenderli e se ne occupava. Poi a un certo punto gli hanno detto: senti, sai che c'è di nuovo? A noi questi morti non interessano, non sappiamo neanche chi sono. Lui fa un cimitero. Seppelliscili tu e fai quello che vuoi. No, non fa un cimitero, lui li seppellisce dove capita. Okay. Se non che un giorno arriva un cadavere che non è un cadavere, perché lui si accorge che la persona in oggetto è ancora viva e quindi gli dà soccorso, lo prende in casa sua, e da qui comincia una situazione abbastanza inquietante, molto tesa tra i due personaggi, soprattutto perché l'uomo, che è sempre stato abituato a vivere solo, a un certo punto ha dei sentimenti sempre più di astio nei confronti del poveretto che è arrivato alla sua isola, proprio perché lui non è abituato ad avere un altro tra i piedi. E questo, per tutta risposta, diventa sempre più sfacciato, se vogliamo. Comincia a occupare la sua casa come se fosse sua proprietà. Non chiede più permesso per fare le cose, insomma. E lui quindi vorrebbe tanto rimandarlo indietro, ma non sa come fare. Tanto più che quando arriva la nave delle provviste, il tizio, il naufrago, chiede di essere nascosto, dice che non vuole assolutamente che lo chiede, e fra l'altro questo non parla la sua lingua, per cui a gesti si spiega e fa capire che non vuole andare sulla terraferma, non vuole essere preso, fa capire che il nostro guardiano del faro pensa: ma probabilmente sarà un clandestino, non vuole andare incontro a delle storie, così. le cose si complicano quando una notte il nostro guardiano del faro si ritrova, si sveglia, svegliandosi di notte, si ritrova accanto al suo letto il personaggio che è l'uomo, perché in tutto il romanzo verrà solo chiamato l'uomo, perché non sapremo mai come si chiama, che gli fa un segno molto esplicito, cioè col dito indice passa attraverso la gola. Ti taglio la gola. Ti taglio la gola, non lo sappiamo. Lui lo prende così. Però il giorno dopo, quando troverà in una insenatura, lo prende così, ha una gran paura, per cui comincia a nascondersi, e lui ha un nascondiglio nell'isola che è sicuro che nessuno possa trovare. Però il giorno dopo, quando va a questo nascondiglio, che ci trova in questo nascondiglio? Una donna, il cadavere di una donna con la gola tagliata. E qui mi fermo. Mi hai lasciato senza parole. Sì. E qui mi fermo, perché il resto diventa tutto un gioco, non dico al massacro, ma comunque un gioco di sensazioni sempre più inquietanti tra il guardiano del faro e l'uomo. Il guardiano del faro che pensa ad aver capito che l'uomo sia un assassino e per questo voleva sfuggire alla polizia, e nello stesso tempo l'uomo che invece cerca comunque l'amicizia di questo guardiano, l'amicizia, almeno la complicità di questo guardiano del faro, fino a un finale assolutamente a sorpresa che ovviamente non svelo. Certo. Quindi è un è in omaggio. Sì, è in omaggio. Oh, attenzione, ribadisco, sì. 333-180-9494. Io mi sono immaginato alcune attinenze, sai, no? Quello che stiamo vivendo con gli sbarchi. Sì, certo. La cosa più attinente che io ti posso dire, però, è un film che non ha niente a che vedere con gli sbarchi e che è un film di qualche anno fa che ha girato parecchio sulle piattaforme a pagamento, credo su Netflix proprio, che si intitolava appunto Il faro, mi sembra, un film con William Dafoe, dove appunto c'era una rivalità tra due personaggi, il guardiano del faro, il suo aiutante anziano, il suo aiutante giovane, e un film in bianco e nero sempre più cupo, con atmosfere sempre più cupe. Una cosa però che differenzia questo lavoro da quel film, che peraltro ha atmosfere molto simili, è il fatto che noi veniamo anche messi a confronto con episodi della vita precedente di questo guardiano del faro, episodi della vita precedente che chiaramente sono molto simili a situazioni che i neri hanno veramente subito in Sudafrica. Non siamo in Sudafrica, cioè non ci viene detto dov'è questo posto. È chiaro che ci sono delle invenzioni, se vogliamo, fatte dalla scrittrice che non riguardano, che non hanno niente a che vedere con la politica sudafricana del post-apartheid, perché si immagina che in terraferma ci fosse stato un governo di un dittatore dopo una situazione simile a quella dell'apartheid. Però insomma c'è tutto questo contesto sociale del guardiano che chiaramente mancava in quel film, che era soltanto un film di tensione e di atmosfera. Io intanto do il buongiorno ad Andrea, il nostro campione, che dice: io sto provando a scrivere due parole su Libro Bianco, un libro edito da Utopia per Piero Scanziani. Come promesso vorrei mandare una recensione. Noi la aspettiamo, ti ringraziamo per l'impegno. Intanto, bene. Un libro che a me è piaciuto tantissimo, a proposito anche di alcune attinenze che abbiamo trovato in questa presentazione dell'isola. Beh, lavoro che mi pare dalla copertina edito da Fazzi. Fazzi, sì. Ecco, guarda, conosco già l'estetica anche da lontano delle varie case editrici. Mettiamo un po' di musica, poi con Silvia Albertazzi parliamo un po' anche di editoria, perché un altro libro che arriva da extraeuropeo, quindi sarà interessante vedere anche questo panorama. Ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino, di Spagna fece vela, cercando l'isola incantata. Però quell'isola non c'era, e mai nessuno l'ha trovata. Spagni di prua dalla galea, come un'idea, come una splendida utopia, è andata via e non tornerà. Dei corsari portano un segno misterioso, ne parlan piano i marinari, con un timore superstizioso. Nessuno sa se c'è davvero, o è un pensiero. Se a volte il vento ne ha il profumo, è come il fumo che non prendi. Ho pensato a una cattiveria, adesso faccio arrabbiare Silvia, intanto complimenti per la selezione musicale, ma allora Guccini ha fatto anche delle belle canzoni, perché questa canzone è bellissima. Ah, per fortuna che lo ammetti, insomma, ah, okay. Questa canzone veramente... La tua risposta è questa, oh finalmente l'hai ammesso. Sì, una canzone veramente molto bella, grazie per avermela fatta conoscere. Non la conoscevi? No, non la conoscevo, e l'avete proposta alle ascoltatrici e agli ascoltatori dei 103.1. La terrò presente anche come consiglio per il venerdì mattina in musica italiana. Comunque tutto quel disco che hai in mano, L'Isola non trovata, sono pezzi uno più bello dell'altro. Questa è la title track, è bellissima, sì. È una canzone molto bella, bene avere anche una eterogeneità musicale con il Voltiamo Pagina, grazie alla playlist di Silvia e Stefano. Io temo che il disco che ho qui in vinile sia stato a cura di Stefano, eh? Ho come sospetto. Sì. Questa invece è una tua selezione? Guarda, questa è tutta mia. Okay. No, ma guarda che non è stato facile trovare quattro pezzi che avessero l'isola nel titolo. Abbiamo dovuto scendere a compromessi. No, ce l'hanno tutti. Okay. Scendere a compromessi nel qualitativi. Senso, sì, qualitativi. Okay. Anche perché all'ultimo momento abbiamo dovuto sostituirne uno, perché il pezzo che ci era venuto in mente subito era L'Isola che non c'è, sì, di Bennato. Certo. Ma in questi giorni qui a Radio Città l'avete trasmessa almeno altre tre volte, per cui ho detto no, basta. Ok, è andata troppo. È andata troppo, sì. Non voglio attirarmi le antipatie di tutti i fan di Guccini, ci mancherebbe, anzi, mi cospargo il capo di cenere e ringrazio per questo consiglio musicale. Si parlava di editoria extraeuropea, un'altra conferma, Silvia. Cioè? Diverse. Ah sì, certo, sì. Qui siamo ancora in Africa, per la precisione in Sudafrica. Ed è molto fertile l'uscita editoriale e la ricerca delle case editrici. Le case editrici forse si sono mosse un po' tardino, sì. Nel senso che sono anni e anni che... Confermo. Adesso parlo per quanto riguarda la letteratura di lingua inglese, ma oramai sono almeno 30 anni che la letteratura di lingua inglese migliore viene dalle ex colonie. E qui sguasti, Silvia, e invitare un oca a bere, come si dice a Bologna, perché è un po' il tuo pane quotidiano, insomma. L'autrice porta il nome di? Karen Jennings. L'isola è semplicemente il titolo. Un'isola. Un'isola, ecco, ancora più semplice. Sì. Guarda, la casa editrice Fazzi. È Fazzi. Sì. Non è un libro particolarmente grosso. Non è un tomo. No, sì, non è un tomo. Si legge abbastanza bene. No, si legge benissimo, anche se più vai verso la fine e più ti prende l'aspetto del plot come sì. Per esempio, per quanto mi riguarda, la tensione era talmente forte che dovevo abbandonarlo, cioè non mi veniva la voglia di andare avanti per vedere come andava a finire. Sei molto sensibile. Sì, perché temevo il peggio, allora lo abbandonavo. Certo. Ti mettevi in sicurezza, insomma. Sì, in qualche modo sì. Oh, è arrivata una recensione corposa, ma direi che merita la lettura, eh? Uh-huh. È Andrea. Libro bianco di Piero Scanziani. A me è piaciuto, pensandoci bene, per questa breve recensione non è un libro facile. La prosa è ricercata e richiede tempo per entrare nelle vite di Adamo ed Eva, nelle loro aspirazioni e debolezze, tanto che alla fine ci appaiono così umani nonostante l'argomento alto. Altro argomento che mi sembra corrente è la nostalgia dopo la morte. Non rimane niente, i personaggi si risvegliano nudi in un immenso prato e tutto quello che gli rimane sono le storie che ricordano o raccontano del loro passato, quando ancora erano in vita. Boh, spero di aver scritto cose sensate. Hai scritto bene, anche se deve passare il veto di Silvia, ma no, sono io non certo ho letto che questo libro, quindi è scritto molto bene. E questo già, questo va. Andrea. Poi il libro non l'ho letto, per cui non posso entrare nel merito. Quindi oggi sei in competizione per il quiz, in maniera meritoria, grazie a questa bella recensione. Hai scritto cose molto sensate e per quanto mi riguarda questo lavoro è in lizza per il premio Pellegrino 2023, perché è una ricerca di utopia per questo autore svizzero che secondo me tra i sottovalutati e ha lasciato delle perle veramente molto molto interessanti, tra cui appunto Libro Bianco. Grazie Andrea. Dicevi una lettura scorrevole, sì, ma molto, di qualità, molto, quindi a te è piaciuto? Sì, senza dubbio lo consiglio vivamente. La scrittura è molto chiara, molto semplice, come si dice in gergo, cioè usando proprio il linguaggio tecnico, è paratattico. Sì. Cioè soggetto, complemento, soggetto, verbo, complemento, senza tante subordinate, e questo normalmente facilita la lettura, se vogliamo. Però c'è questo aspetto appunto di bisogna entrare dentro. All'inizio sembra che non capiti niente, o che sia tutto già, capitato nel passato del protagonista, e poi succede di tutto, diciamo. Sì, veramente c'è una dicotomia tra gli aspetti di questa forzata accoglienza per il guardiano che ha vissuto una vita passata anche al cospetto di contraddizioni nella società in Sudafrica, si ritrova con l'arrivo non solo purtroppo di persone che hanno perso la vita in mare, ma di una identità che è ancora vivente. Ovviamente la accoglie, questa identità diventa sempre più presente, a volte anche in maniera fastidiosa, finché la svolta lo porta a rimanere costantemente e in maniera forzata la richiesta di restare vicino all'ospitante. Ma c'è di più: una velata minaccia molto forte. È una minaccia, non è una minaccia, tant'è che nel volersi nascondere il residente dell'isola trova un cadavere caduto appunto con la stessa modalità della minaccia, cioè colpito alla gola. Da lì in avanti ovviamente non andiamo oltre, anche perché io non posso andare oltre, anche perché non ho letto il lavoro che ha appena presentato Silvia. Però voi potete andare andare oltre al 333-180-9494 con appunto la risposta al quiz che a breve arriverà in frequenza da Silvia. Quindi noi vorremmo, o meglio, tu Silvia vuoi sapere? Sì, io vorrei sapere una cosa. Avete sentito questa canzone che persino Willy ha lodato, sì, di Guccini, L'isola non trovata? Bene, il testo non è di Guccini, ma è di un famoso poeta italiano. Io vorrei sapere il nome di questo poeta. E noi mettiamo un brano in vinile meraviglioso. È uno standard jazz, è di Herbie Hancock ed è The Cantaloupe Island. E poi ritorniamo per darvi risposta per quello che arriverà al 333-180-9494. Ripetere il titolo dell'album di Guccini, Silvia? Ma certo che sì. L'album di Guccini è L'isola non trovata. Ed è solo per quel testo o tutti i testi? No, solo quel testo è di Gozzano. Okay. Gli altri sono tutti di Guccini. Ok. stavo per dire, siccome l'autore dei testi è uno dei miei poeti. Ah no, io l'ho già detto, ma tanto c'era già arrivata una risposta. No, beh, non l'hai mica detto. Il nome l'hai detto, io non ho. Ah, ce l'hai detto, allora noi consegniamo a chi ha già risposto involontariamente, tra l'altro, a questo quiz. È l'album Gozzaniano di Guccini. Il testo della canzone, appunto, è di Gozzano, come ha scritto Sergio, che ringraziamo. E a questo punto, Silvia, visto che ha scritto anche la definizione Gozzaniano, certo, Gozzano, certo, di dare il libro al nostro Sergio. Quindi, Sergio, hai una bella lettura da fare per questo weekend, oltre che con i magazine, anche con il libro in premio presentato da Silvia. E noi andiamo in pubblicità allora. Beh, mettiamo questo brano che hai detto, questo l'ho dovuto mettere perché l'isola che non c'è di... L'avevate già messo troppo. L'avete messa troppe volte, allora hai portato Simone Cristicchi. L'isola. E andiamo in pubblicità con questo brano tratto dal disco Fabbricante di Canzoni. A tra poco. Verso luglio con gli zaini sulle spalle, con i biglietti in mano di un primo viaggio, su quel traghetto pieno di chitarre e fricchettoni, destinazione un'isola lontana della Grecia, intorno a noi soltanto mare, salsedine, l'odore di marijuana colorava l'aria dolce come il calore dentro i sacchi a pelo in una notte fredda sotto al cielo. L'isola è un minuscolo puntino in mezzo al niente, distante dal rumore di una civiltà invadente. L'euforica incertezza di viaggiare sopra un autobus che a malapena si reggeva in piedi. Vedi gli ulivi cullati dal meltemi, le facce consumate antiche dei vecchietti di un paese bianco, testardamente arrampicato alla montagna di roccia e di Mediterraneo. C'era il sole, c'era il mare, c'era tutto quello che volevo avere. C'era il sole, c'era il mare. Il mare, c'era il pane, c'era il sale, tutto quello che potrei desiderare. C'era il sole, c'era il mare, e poi c'eri tu. Sulla spiaggia, dalla taverna un sottofondo di sirtacchi e di preghiere, scoperta di sapori nuovi davanti a quel bicchiere di rezzina e un'insalata greca. Le chiacchierate con la gente più diversa capitata in quell'angolo sperduto della terra, e Fabio che ci raccontava il giorno che ha deciso di lasciare tutto e di restare. C'era il sole, c'era il mare, c'era tutto quello che volevo avere. C'era il sole. Earth, stream and tree, encircled by sea, waves sweep the sand from my island. My sunsets fade, field and glade, wait only for rain, grain after grain, love erodes mine. High weathered walls, which fend off the tide, cradle the wind to my island. Gaunt granite climbs where gulls wheel and glide, mournfully cry o'er my island. My dawn bride's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun, cats prowl, mice run, wreaths snatch and briars, where owls know my eyes. Violet skies, touch my island, touch me. Highlands è il disco, il brano è omonimo ed è King Crimson ed è l'ultimo nella playlist portata da Silvia e Stefano per quest'oggi. Dolcissimo rientro quindi per concludere la presentazione di Un'isola, edizione Fazzi. Aggiungo che Sergio, essendo anche un grande appassionato nonché intenditore di musica italiana, ha avuto veloce abilità anticipando addirittura per il quiz. Però abbiamo un altro lavoro per voi che a breve, in due parole, cercherò di presentare. È un lavoro di un autore, oppalà, italiano in questo caso. Intanto Silvia, per quanto riguarda l'edizione 2023 Premio Pellegrino, siamo ancora in alto mare, sì, o hai qualche... No, sinceramente non sono molto soddisfatta di quello che è uscito finora e siamo già in ottobre oramai. Confermo. E non so bene che cosa ti... Forza e coraggio. No, sai che cos'ho e lo porterò la settimana prossima? Avrei un Pellegrino Italia, cioè un saggio che veramente mi ha lasciato a bocca aperta, e quello mi piacerebbe molto assegnargli il Pellegrino, perché veramente, ne parleremo appunto mercoledì prossimo, l'ho finito ieri, mi è piaciuto veramente, ma mi ha stupito da tanto che era interessante. Ma per quanto riguarda la narrativa, ma ho letto 2023 è un po' così, eh? Ho letto delle cose piacevoli, delle cose interessanti, ma qualcosa che mi abbia stupito da dire, come successe, che so, con Galgut, con La Promessa, no. Confermo, stesse sensazioni. Allora, Italia, Marco Rossari nasce nel 1973, è uno scrittore, ma è anche un traduttore. Lui ha tradotto Dickens tra gli autori, ha tradotto Mark Twain, so bene della tua passione per Dickens, l'ho voluto citare appunto tra gli autori tradotti da Marco Rossari. Per quanto riguarda altri autori che sono protagonisti, vi ho detto, a volte consigliamo anche altri libri oltre ai due in palio al Voltiamo Pagina, parliamo di un autore che è Malcolm Lowry. Nasce in Gran Bretagna, nella parte occidentale, nord-occidentale, praticamente sulla costa, nel 1947. Scrive poi in questa data, scusate, Sotto il vulcano, nasce dal punto di vista letterario con Sotto il vulcano, che verrà poi portato sul grande schermo nel 1984, regia di John Huston, è stato tradotto anche con un film, per cui portato in pellicola. Lui, e anche, poi, scusa, dimmi, se ti interrompo, prego. Malcolm Lowry vive gran parte della sua vita in Canada, per cui di solito, per esempio, all'università si studia nella letteratura canadese, malgrado sia nato in Inghilterra, perché appunto gran parte della sua vita l'ha passata in Canada. Io anni, decenni fa lessi questo lavoro, che è considerato uno dei lavori più importanti però in ambito di letteratura inglese, che è Sotto il vulcano. È un lavoro molto molto importante, che narra di un console che viene trasferito in Messico, viene abbandonato dalla moglie, si ritrova in questo strano paese disperso tra due vulcani, succedono diverse peripezie per cui lui si abbandona all'alcol, vive con l'amore per perduto della moglie, arriverà poi l'incontro, che non sarà certo di riappacificazione, con l'ex consorte, e un percorso veramente che si disperde tra fiumi di alcol, dolore per quanto riguarda la storia sentimentale e quello che è tendenzialmente nei fili conduttori di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry. Arriviamo ai giorni nostri. Viene tradotto Marco Rossari, per così dire, non solo dal punto di vista letterario, ma con L'ombra del vulcano. È una continua ricerca in un gioco di specchi di inseguire Malcolm Lowry. L'ombra del vulcano vede un protagonista, anche lui, che a 40 anni si trova lasciato solo da un rapporto, definiamolo storico, finito male, e allo stesso modo anche lui ha la debolezza di alzare il gomito dell'alcol e cercherà in tutti i modi, trasferendosi in diversi punti, in diversi località, con questi viaggi e con questa ricerca, sempre con quest'ombra del vulcano che null'altro è che il vulcano di Malcolm Lowry nel lavoro del 1947, lavoro che ha segnato questo protagonista in maniera quanto mai molto incisiva, a tradurre nella stessa traduzione e nel lavoro da Sotto il vulcano all'ombra del vulcano una continua ricerca di dialogo. Certamente è un dialogo surreale. Malcolm Lowry scompare, mi pare, nel 1900, a ridosso del 1960, ecco, adesso a memoria più o meno non ricordo esattamente, però la data di scomparsa è questo. Quindi è un dialogo surreale, ma è una continua ricerca e una sorta, come ho detto, con gioco di specchi, di conoscenza delle esperienze che questo protagonista, Marco Rossari, come ho detto, traduttore, oltre che narratore e scrittore, trova con questo scrittore del passato. L'ombra del vulcano, edito da Einaudi, è un lavoro che ho trovato, non dico primario, ma immediato. Questo vuol dire che certo vi è una scorrevolezza importante nel leggerlo, anche questo non è un tomo, è un libro abbastanza, troviamo alla fine, guardate, vi dico 160 pagine, ecco, poco più, per rendere l'idea. È una lettura immediata, certamente, quindi abbiamo l'abbandono sentimentale, abbiamo anche l'abbandono anche nella ricerca di sopire questo dolore nell'alcol, nei viaggi e in un libro che lui costantemente, sempre accanto a sé, nella ricerca del dialogo con questo autore di cui vi ho dato ampia presentazione. Posso farti una domanda? Sì, certo. Uno che non abbia letto Under the Volcano, Sotto il vulcano, fa fatica a entrare in questo romanzo? No, assolutamente, come ho detto, è un lavoro molto, sa che dietro c'è un classico la bellezza. Ma se uno quel stavo per dire, non l'ha letto? No, viene voglia di leggerlo. Questo okay. Classico viene indubbiamente voglia di leggerlo, ecco, era la parte che volevo mandare poi in seguito a questo brano dei Cinematic Orchestra, oltre che a lanciare il quiz. Un valore aggiunto, oltre a tutta questa anticipazione che ho dato, è che ti viene voglia, indubbiamente, di leggere Sotto il vulcano, il lavoro di Malcolm Lowry, per capire ulteriormente il lavoro di Marco Rossari. Edizioni Einaudi, in questo caso è L'ombra del vulcano. So bright, light up my life. Oh. Oh, yeah. grande merito comunque, grande attenzione. Quello che vi è nel sotteso letterario in questo lavoro è l'importanza della traduzione per un lavoro, è il rapporto tra autore in lingua originale e traduttore. In tutto questo poi ne nasce un romanzo che ha il titolo molto simile tra lavoro presentato e lavoro tradotto, chiaramente ha anche delle attinenze nella narrazione e una ricerca, visto questa comparazione, di voler alla fine parlare con l'autore che ha portato in scrittura tempo fa quello che appunto è Sotto il vulcano, con l'ombra del vulcano. E Vulcano Efesto sarà protagonista del nostro quiz, ma non parleremo di mitologia, parleremo di vil denaro, ora fuori corso. Di moneta, parliamo della vecchia lira. Efesto, Vulcano, era rappresentato nella parte, si diceva, testa o croce, no? Nelle monete c'è la Repubblica Italiana, rappresentato da questo profilo di ragazza, e in questa moneta, nella parte che chiamiamo croce, c'era la figura di questa divinità, di Efesto, il fabbro degli dèi, intento a martellare, a forgiare qualche arma per le divinità olimpiche. Efesto e Vulcano, che sono la stessa deità per i latini e per i greci, era raffigurato, diciamo, sul retro delle monete della vecchia lira. Di quale pezzatura? Quanto valeva questa moneta? Se mi dite appunto il valore di questa moneta, per voi L'ombra del vulcano di Marco Rossari. Va subito, ma veramente un testa a testa è tra Luca e Dino. Vince Luca, ma Dino è un paio di volte che per un soffio non riesci. Grazie Luca, sì, risposta esatta, le 50 lire. Che la risposta esatta di Andrea, un bel podio, Luca medaglia d'oro, Dino medaglia d'argento e Andrea è la medaglia di bronzo in questo caso. Per cui insomma io vi ringrazio per questa partecipazione. Gesto decubertiniano di Luca, che ovviamente regoleremo a breve. Comunque, ok, grande. C'è una sportività tra le ascoltatrici e gli ascoltatori di Voltiamo Pagina che veramente mi porta a dire: sono molto fiero di voi. Siamo molto fieri di voi, oltre che per l'attenzione, di cui vi ringraziamo, per questa sportività molto palese. Grazie Luca, grazie Dino, grazie Sergio e grazie Andrea. E noi siamo arrivati al termine alle 8:50 minuti. Silvia, tutto a posto? Certo. Ok, no, ti vedevo un po' così, non dico assopita, ma distratta, ma ci sta con tutte le mie chiacchiere. Adesso abbiamo il video. Ah sì, certo. Ecco, vedi, tacchete, è arrivato il momento del video, poi faremo un po' di colazione e riprenderemo il nostro lavoro in redazione. Ecco, io sarei curiosa di sapere se i nostri ascoltatori lo guardano il video. Ah. Magari la prossima volta, se qualcuno ci mandasse un messaggino dicendo: ho visto il video, eravate proprio brutti. Okay, però beh, almeno non vediamo, siate spietati. Ecco. Almeno vediamo che qualcuno, che lo facciamo per qualcuno. ecco. Certo che lo facciamo per qualcuno, per i nostri video ascoltatori di Radio Città Fujiko. Oltretutto è diffuso sulla paginetta Facebook del Breakfast Club. Oh, domani e venerdì due giornate piene tra arte, teatro e musica, quindi vi aspetto a colazione puntuali alle ore 7. Grazie Silvia, l'appuntamento è a mercoledì prossimo, buona giornata. Buona giornata a tutte e a tutti. Ciao.